Ne tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla sigaraie della manifattura tabacchi di Firenze. Nel 1766 a Firenze iniziò la sua attività la Fabbrica Reale del Tabacco, in cui lavoravano 38 operai. La pianta del tabacco iniziò ad essere coltivata in Toscana nel 1774 a scopo medicinale. Solo successivamente si iniziò a fumarne le foglie e ad aspirarne la polvere. Nel 1777 il convento di Santa Caterina, situato nell'attuale via Santa Caterina d'Alessandria, venne riadattato e trasformato in parte a manifattura tabacchi. Nel 1810 la manifattura tabacchi si trasferisce all'ex convento di Sant'Orsola in via Guelfa, che allora si chiamava via dell'Acqua. È qui che inizia la lavorazione dei famosi sigari toscani. All'epoca un operaio esperto riusciva in 8 ore a confezionare 1000 sigari. Agli inizi le maestranze erano composte solo da uomini, ma già nel 1841 erano presenti 20 sigaraie oltre a 355 operai. L'11 dicembre 1860 fu presentato alla direzione della manifattura di Firenze il regolamento per la classe operaia addetta alla manifattura nazionale dei tabacchi nelle province toscane, in cui veniva sancito che l'età richiesta per l'ammissione delle donne in fabbrica era dai 14 ai 20 anni. L'orario di lavoro doveva essere stabilito dalla direzione di volta in volta, in base alle esigenze di lavoro. Erano proibiti i reclami collettivi, le assemblee e le collette. Il lavoro notturno o festivo richiesto dalla direzione era obbligatorio e retribuito come quello diurno nei giorni feriali. maestre e sorveglianti, dovevano essere scelte dal direttore, le quali potevano conferire con lui solo in caso di cattiva condotta di qualche operaia. La lettura dei giornali o stampati contrari al governo e la partecipazione a dimostrazioni collettive di protesta erano punite con la destituzione immediata da ogni servizio. Ma già nel 1865 i lavoratori della manifattura tabacchi si riuniscono per costituire una cooperativa di consumo, iniziando così ad organizzarsi. Il 5 marzo 1867 fu fondata la Lega Alimentaria, che avrebbe poi aperto una bottega davanti a Or San Michele ed altre due nella vicina Piazza dei Tre Re, al fine di contribuire all'unità generale, come era scritto nel manifesto stampato per l'inaugurazione dagli artigiani della manifattura tabacchi. In quegli anni il monopolio statale dei tabacchi risultava in deficit finanziario, fu quindi deciso di affidarlo ad una società che avrebbe dovuto versare un canone annuo allo Stato. Questa società, che fu denominata Regia, era compartecipata dal governo e da alcuni istituti bancari e fu istituita il 23 giugno 1868. Nel 1869 la Regia decise di ridurre il personale e i salari e tutti gli operai e le operaie della manifattura fiorentina vennero licenziati e la fabbrica venne chiusa, fino a quando la rimanenza del prodotto presente in magazzino furono tutte vendute. Quando la fabbrica venne riaperta, vennero assunte quasi esclusivamente donne con salari molto più bassi di quelli maschili. Perciò, negli anni seguenti, le sigaraie furono protagoniste di tumulti e proteste contro i licenziamenti e le riduzioni di salario che continuarono ad essere attuate dalla Regia. Il 22 dicembre 1872 il questore scriveva una lettera all'ispettore di Santa Maria Novella, in cui possiamo leggere: «Mi hanno riferito che alcuni lavoratori del tabacco abbiano intenzione di recarsi domattina tanto alla fabbrica di via Panicale quanto alla sede della Regia in via Sant'Egidio, allo scopo di far pratiche per essere riammessi al lavoro e adoperando modi impropri come in addietro fecero». Ascoltiamoci ora il coro delle sigaraie dalla Carmen di Bizet. Oh, Nell'agosto 1873, su un totale di 1145 lavoratori alla manifattura tabacchi, 939 erano donne. Nel 1874 i lavoratori della manifattura tabacchi di Firenze decidono per la prima volta di entrare in sciopero. Ed ora ascoltiamoci una breve sintesi storica tratta dallo spettacolo teatrale dal titolo «Le sigaraie parlano», rappresentato il 3 aprile 2025 al Teatro di Rifredi, presentato da Daniela Morozzi, su ciò che avvenne a partire dal 1874 fino al 1921. La storia parte da lontano. 1874. Con lo spostamento della capitale d'Italia a Roma, Firenze visse una forte crisi economica che si abbatté soprattutto sulla classe lavoratrice. Pane, carne e vino si vendevano a prezzi altissimi. I fitti per un alloggio modesto incidevano fino al 70% sui salari degli operai. Le condizioni di lavoro erano difficilissime. Nacquero moti di protesta ovunque, anche le sigaraie, per la prima volta, decisero di scioperare in massa. Il 29 giugno alle ore 11 in punto, l'agitazione partì dallo stabilimento di Sant'Orsola e contagiò presto la fabbrica di San Frediano. Fu uno sciopero eccezionale, aderì la quasi totalità delle sigaraie. Le donne, accanto all'aumento di retribuzione e a migliori condizioni di lavoro, chiedevano però anche una maggiore qualità delle foglie di tabacco. Lavoravano a cottimo, guadagnavano 21 centesimi ogni 100 sigari confezionati e la cattiva qualità del materiale rallentava forzatamente la produzione. Dopo 6 giorni di sciopero, minacce e alcuni arresti, le sigaraie formarono una commissione di 8 donne e si recarono in questura con il direttore. Era la prima volta che un fatto del genere avveniva a Firenze. Fu un successo. Ottennero 4 centesimi in più ogni 100 sigari. 1878. Creano il circolo di propaganda socialista fra le operaie di San Frediano. 1883. Creano la società di mutuo soccorso fra le operaie della manifattura tabacchi di Firenze. 1893. Nasce la Camera del Lavoro di Firenze e le sigaraie sono le prime a farne parte. 1921. Quando viene proclamato lo sciopero generale, dopo l'uccisione di Spartaco Lavagnini, le sigaraie rispondono in massa, mostrando da subito una grande resistenza di fronte alla crescente minaccia del fascismo. Il fascismo alla manifattura tabacchi non riuscirà mai a trovare terreno fertile. Il giornale L'Opinione Nazionale scrisse sullo sciopero del 1874: «Non avevano tutti torti, perché di giorno in giorno il lavoro che facevano non dava ad esse quel guadagno di una volta a causa delle cattive foglie di tabacco che, essendo durissime e male adatte alla lavorazione, diminuiva loro la paga giornaliera». Lo sciopero del 1874 iniziò il 29 giugno alle 11, quando il lavoro fu sospeso in tutti i reparti e le sigaraie scesero in cortile e presentarono le loro richieste al direttore, che chiamò carabinieri e guardie regie. Ragazzi, donne e uomini del quartiere si raccolsero in strada di fronte alla manifattura ed alcuni di essi furono arrestati. Il giorno dopo la fabbrica fu chiusa ed oltre alle forze di polizia si aggiunsero 2 compagnie dell'esercito. Le scioperanti costituirono una delegazione di 8 sigaraie ed andarono in questura. Il questore si dichiarò disponibile verso le scioperanti, Poco dopo si formò un corteo di 700 donne che andò in via Sant'Egidio, alla sede della Regia, nelle cui vicinanze il 1 luglio furono arrestati alcuni uomini che furono poi processati per direttissima insieme a quelli del giorno prima e condannati a pene da 6 mesi a 1 anno. Il giornale La Nazione addossò la colpa dei disordini agli anarchici, dipingendo l'intervento delle forze repressive dovuto a un'indiscutibile necessità. Alla fine del 1883 la fabbrica che produceva sigarette d'Avana, che aveva sede nel Torrino di Santa Rosa, fu trasferita nell'ex convento, poi diventato sede della pretura, di San Pancrazio, in locali umidi e senza luce. Una delle maggiori attiviste delle proteste delle sigaraie in quel periodo fu Annunziata Gufoni, che dirigeva il gruppo anarchico delle sigaraie, fondato nel 1887, che venne arrestata il 20 giugno 1894. Dopo il processo, svoltosi a novembre, fu inviata al domicilio coatto a Pitigliano, dove rimase per 1 anno. Nell'aprile 1896, le operaie della manifattura fondarono la sezione sigaraie della Camera del Lavoro di Firenze. Lo stesso anno fu fatto uno sciopero contro l'introduzione del mazzetto, cioè l'obbligo di raccogliere in mazzi le costole delle foglie di tabacco, un'operazione che richiedeva 2 ore di lavoro al giorno, per la quale non veniva riconosciuta nessuna retribuzione. In quel periodo, come risulta da un articolo del giornale L'Avanti del 12 gennaio 1899, le lavoratrici della manifattura tabacchi sono costrette spesso a trovare denaro a prestito per poter sopravvivere, diventando così preda degli strozzini. Nel 1901 le sigaraie delle manifatture di tutta Italia entrano in agitazione. Il giornale La Difesa del 28 luglio scrive: per fare atto di solidarietà con le sigaraie di Milano che avevano scioperato chiedendo un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, le operaie delle 2 manifatture tabacchi di Firenze, quella di Sant'Orsola e quella di San Pancrazio, abbandonarono lunedì mattina improvvisamente il lavoro. A maggio 1904 viene promulgato il nuovo regolamento delle manifatture tabacchi. Il giornale La Difesa scrive: in seguito all'approvazione della nuova legge sulle pensioni del personale dei tabacchi ottenuto con la pressione della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Stato, le sigaraie, che in questa lotta sono state attivissime e in testa al movimento, sabato scorso improvvisarono all'interno della manifattura una entusiastica dimostrazione, cantando l'inno dei lavoratori e agitando bandiere rosse, inneggiarono all'organizzazione e alla solidarietà di tutti i lavoratori. È una grande vittoria. Nel regolamento viene riconosciuto il diritto di sciopero e il diritto ad una regolare pensione, anche se poi la direzione cercherà di attuarlo in maniera restrittiva. Ascoltiamo ora La Lega Vincerà, cantata da Giovanna Marini. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Cromiri col padrone, cromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Siamo donne, padre. paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. In un'inchiesta ministeriale condotta negli anni 1905-1906 risultava che su 13.180 addetti all'industria del tabacco, 11.426 erano impiegati nel settore della fabbricazione dei sigari. Di questi, 8.439 erano sigaraie. All'inizio del 1908 una delegazione di sigarai andò dal prefetto richiedendo di costruire nuovi locali per la manifattura a tabacchi, dato che quelli allora esistenti, per quanto si potessero ampliare e rimodernare, erano fatiscenti e non erano idonei alla lavorazione, ma non furono ascoltate. Il 15 novembre 1910 scioperano le cosiddette novizie, cioè le sigaraie in prova per un anno, a causa delle foglie di tabacco scadenti e in misura così scarsa da non garantire un guadagno decente. Lo sciopero durò 3 giorni e coinvolse 400 operaie, sicuramente si sarebbe ulteriormente allargato se non avesse avuto presto successo e venissero accolte tutte le richieste. Nel 1910 nello stabilimento di Sant'Orsola lavoravano 873 donne e 59 uomini. Nel gennaio 1911 fu fatto un altro sciopero di 4 giorni per gli stessi motivi alla fabbrica di San Pancrazio, ma questa volta una sigaraia fu sospesa e le operaie non riuscirono a ottenere quanto richiesto. Poi, il 4 agosto 1911 entrarono in sciopero le sigaraie di Sant'Orsola per aver tabacco più abbondante e un aumento di salario e dopo 4 giorni e l'allungamento della lotta all'altra fabbrica, questa volta la direzione fu costretta ad accogliere le richieste. La direzione però l'anno successivo introdusse una nuova disposizione, quella della tavoletta. Si trattava di un sistema di misurazione con il quale i sigari dovevano essere contati e disposti uno alla volta, non a mazzetti, e misurati secondo norme precise. Un sistema che richiedeva 2 ore in più di lavoro, non retribuito. Le sigaraie entrarono in sciopero e la direzione il 12 aprile attuò la serrata per 13 giorni, poi, pur mantenendo il sistema della tavoletta, lo rese meno pesante e aumentò i salari. Nel 1914 iniziò una dura battaglia per la revisione del regolamento del 1904, ancora in vigore, chiedendo un aumento della retribuzione del cottimo e delle pensioni, l'abolizione dell'ora di straordinario e l'eliminazione delle casse mutue interne create e gestite dalle operaie e sostituite da un sistema di mutua interamente statale. Il 15 aprile arrivò la risposta del Ministero delle Finanze che respinse le principali richieste, facendo solo generiche promesse per un prossimo aggiornamento delle pensioni. Il 17 aprile iniziò lo sciopero in tutte le manifatture italiane. Il giornale Il Tempo scrisse a proposito dello sciopero delle manifatture fiorentine: lo sciopero fu completo anche tra le 300 operaie della fabbrica di San Pancrazio, che si adunarono in cortile senza uscire dai cancelli fino alle 14, ora della normale uscita del turno mattutino. La giustificazione addotta dal governo a sostegno della propria intransigenza fu di tale natura da rivelare alle operaie il legame esistente fra le loro rivendicazioni e le maggiori questioni politiche del tempo. La recente impresa in Libia aveva assorbito ben 2 miliardi di lire e pertanto, sosteneva il Ministero delle Finanze, le casse dello Stato erano vuote. In città ci fu una forte solidarietà. Per primi i tipografi aprirono una sottoscrizione in favore degli scioperanti e il loro esempio fu seguito dalle donne socialiste, dagli operai delle officine Galileo e dal giornale Il Tempo. Le operaie occuparono la manifattura anche perché la direzione adibì gli impiegati alla lavorazione del tabacco, facendogli fare opera di crumiraggio. Il ministro delle Finanze, continuando a non accogliere le richieste, si dichiara disponibile ad istituire le cosiddette camere di allattamento per le sigaraie madri, ma solo dopo la cessazione dello sciopero. Il 13 maggio il Ministero delle Finanze concesse una settimana di ferie pagate, un aumento del 25% del salario dell'ora di lavoro straordinario e l'aumento del sussidio di malattia. Le scioperanti di Firenze approvarono una risoluzione in cui dichiaravano: considerando che le risposte del Ministero tendono soltanto ad impressionare l'opinione pubblica e a svalutare l'importanza morale del loro movimento, dichiarano di continuare lo sciopero ad oltranza, fino a che il Ministero non concederà almeno i miglioramenti minimi richiesti dal Comitato di Agitazione. La stessa decisione venne presa a Bologna e a Roma, mentre nelle altre città lo sciopero venne momentaneamente sospeso. Fu però ripreso nei giorni successivi a Milano, Napoli, Chiaravalle, Palermo, Lucca e Modena. Alla fine di maggio alcuni lavoratori e lavoratrici a Firenze iniziano a rientrare al lavoro, ma ancora il 4 giugno le sigaraie tentano di impedire alle impiegate di entrare in fabbrica e soltanto dopo una decina di giorni, a 2 mesi dall'inizio della lotta, tornano al lavoro. Nell'aprile 1920 la Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Stato proclamò lo sciopero per richiedere aumenti salariali per gli operai specializzati, le sigaraie e per gli operai comuni della manifattura a tabacchi. Lo sciopero continua per tutto il mese e si conclude con una parziale vittoria. Nel gennaio 1921 i fascisti assaltano e incendiano la sede del giornale La Difesa. I lavoratori fiorentini proclamano lo sciopero che coinvolge tutti gli operai e le operaie, comprese quelli delle manifatture tabacchi. In marzo poi seguirà lo sciopero contro l'uccisione di Spartaco Lavagnini da parte dei fascisti, come abbiamo già ascoltato nella registrazione dello spettacolo teatrale sulle sigaraie. Nel maggio 1921 le operaie di Sant'Orsola, non potendone più delle inventive a loro rivolte da una fascista che abitava in via Guelfa, si raccolsero sotto la sua finestra urlando contro di lei, quindi partirono con un corteo antifascista che attraversò tutto il quartiere di San Lorenzo. Poi intervenne l'esercito che a fatica riuscì a sciogliere la manifestazione. Allo sciopero generale dell'agosto 1922, indetto dall'Alleanza del Lavoro, le sigaraie parteciparono compatte. Ed ora ascoltiamoci Sigaraie, cantata dal coro delle Musicorum. E alle 7:10 Nel 1927 venne creata l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, un'azienda autonoma di proprietà statale incaricata della produzione e vendita del tabacco, del sale, del chinino e delle cartine da sigarette, fiammiferi e pietre focaie. Il regime fascista ribadì la totale condizione delle donne di subalternità all'autorità maschile e il suo ruolo di madre e di angelo del focolare. Esaltando la maternità, contemporaneamente portò avanti un'intensa campagna contro l'occupazione femminile, fidando nell'appoggio della Chiesa cattolica su alcuni di questi obiettivi. È visibile ancora oggi nel cortile dell'orologio alla manifattura tabacchi di Firenze un bassorilievo che rappresenta plasticamente questa concezione patriarcale del ruolo femminile. Durante il fascismo fu costituita la nuova manifattura tabacchi alle Cascine, un complesso di 16 edifici su un'area di 100.000 metri quadri. Le opere murarie furono completate nel 1937. Nel 1939 furono trasferite le lavorazioni di sigari e sigarette dalle vecchie sedi di Sant'Orsola, San Pancrazio e Il Barco. Nel 1940 la nuova manifattura era interamente funzionante e quindi fu inaugurato il 4 novembre 1940. Ascoltiamo un altro passaggio dello spettacolo teatrale dal titolo Le sigaraie parlano, che racconta cosa successe alla manifattura tabacchi il 25 luglio 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Mussolini. Durante il regime fascista la lotta continua clandestinamente. Le sigaraie, in mezzo a mille difficoltà, si organizzano in segreto, raccontano. E si parlava sottovoce, si cercava di agganciare l'operaio antifasciste, ci si guardava dalle spie del regime, si parlava delle bastonature, della galera, delle persecuzioni. Quanti mariti al tribunale speciale e quanti in galera. E quando scoppiò la guerra, quanti fratelli, mariti e figli e furono costretti a andarci. Il 25 luglio 1943, quando cade il governo Mussolini, si accende per tutti una speranza. Il giorno dopo le sigaraie trovano un modo molto originale per festeggiare. Tutte insieme si astengono dal lavoro, allontanano gli elementi compromessi con il regime e decidono di celebrare simbolicamente il funerale del duce. Presero una lunga cassa per la spedizione delle sigarette, la coprirono con un drappo nero, ci misero sopra un quadro di Mussolini e infine, in quattro, la trasportarono in tutte le parti della manifattura, inneggiando alla libertà. La felicità però dura poco, solo 45 giorni. Subito dopo riprese alla manifattura tabacchi con più vigore l'attività antifascista clandestina, raccogliendo denaro per le formazioni partigiane che si andavano costituendo. Poi furono presi contatti con il Partito Comunista e nei reparti furono formate delle cellule che riuscirono a raccogliere 74 operaie e 11 operai. Alla manifattura venivano distribuiti i volantini della Resistenza. In qualche caso le sigaraie riuscirono ad attaccarli anche sulla porta dell'ufficio del direttore, un fascista e collaborazionista con le forze di occupazione tedesche. Alfredo Mazzoni, nel suo libro È il primo maggio, aprite, scrive: verso la fine di settembre 1943, saputo che in Monte Morello vi erano i partigiani bisognosi di aiuti, la Giuliana Serafini, maestra sigaraia, e Adele Marini, insieme ad altre compagne di lavoro, presero l'iniziativa di raccogliere denaro per i suddetti e lo consegnarono a Rigoletto Casciolli di Sesto Fiorentino. Tale iniziativa suggerì a Rigoletto di sviluppare un'azione politica più efficace e la Giuliana ricorda il suo primo appuntamento con lui sul Lungarno Benvenuto Cellini, le istruzioni ricevute e la sua adesione di fatto al Partito Comunista. Successivamente venne posta a contatto con Mario Fabiani, che le dette direttive per il lavoro organizzativo e la formazione di cellule clandestine. Nello spettacolo teatrale Le sigaraie parlano viene raccontato un aneddoto sulla diffusione del materiale di propaganda della Resistenza svolto da Giuliana Serafini. Io ritiravo manifestini in un negozio di barbieri di via Contar le Mosse. Con la parola d'ordine, sono la moglie dell'arrotino, mi dà le forbici da arrotare? Nel retrobottega poi filavo i volantini nel giornale. Era fascista. E partivo in bicicletta tenendolo bene in evidenza per distogliere l'attenzione dei fascisti e trasportare la stampa a una certa tranquillità. Altre volte invece, quando i volantini erano più voluminosi, me li nascondevo nel corsetto. Si rischiava, e come se si rischiava, una di queste volte preso un bello spaghetto. Doveva andare a un appuntamento oltre il ponte San Niccolò. Ma mentre passavo il ponte fu fermata da due militi che mi chiesero così cosa ci fosse nel grosso pacco che portavo sul manubrio della bicicletta. Un abito, gli dissi, ed era vero. Ma nello scendere bruscamente di bicicletta e mi sentì scivolare i manifestini, e allora per broccarli mi curvai in avanti. Allora a quel punto, contenti di potermi guardare le poppe, e si misero a ridere e mi lasciarono andare. Ed anche di Adele Marini. Anche Adele Marini era una molto attiva. Mi chiamavano Primula Rossa a manifattura per i miei atteggiamenti ribelli e coraggiosi. Dopo aver prelevato la stampa clandestina nella botteghina di un calzolaio a San Jacopino, con la parola d'ordine, mi metti una bolletta a questo tacco? Li mettevo fra le pagine di una rivista di moda e li portavo in reparto. Poi mi avvicinavo alle compagne e gli dicevo: ti piace questo vestitino? Aprivo la rivista e a bassa voce: prendine un pochini e distribuiscili. Così si diffondeva la stampa e si sensibilizzava la stragrande maggioranza delle compagne alla causa. Una volta si giunse addirittura a un lancio di manifestini dalla torre che c'era sopra il grande cortile interno. Alcuni li attaccammo anche alla porta dell'ufficio del direttore Pavone, il quale, pieno di rabbia e fece le indagini, ci minacciò, ma non arrivò a niente. Eravamo troppo uniti, non ci fermava nessuno. Sempre nel libro di Alfredo Mazzoni possiamo leggere come le sigaraie riuscivano ad aggirare i controlli durante l'occupazione tedesca. Allora, sfruttando il malcontento ed il timore di rimanere in fabbrica e adducendo il motivo che i rifugi allestiti nelle cantine erano mal sicuri, vere e proprie trappole, viene concordata un'azione generale di protesta contro il divieto di uscire durante gli allarmi aerei. Il direttore non cedette a tale richiesta, ma durante un ennesimo allarme le sigaraie si riversarono all'ingresso gridando di volere uscire e, forzato il cancello principale, si dispersero nel vicino Parco delle Cascine. Al rientro, dopo il cessato allarme, intervennero le forze di pubblica sicurezza ed arrestarono tre donne, individuate come responsabili della sommossa. Alla minaccia di sciopero per il rilascio delle tre compagne, l'arresto, dopo lunghe discussioni, fu commutato in una forte multa da parte delle finanze e due mesi di sospensione. Giuliana Serafini entrerà poi a far parte dei GAP, i gruppi di azione patriottica, le cellule della resistenza armata contro il fascismo e gli occupanti tedeschi che operavano in città. E nel 1965 verrà insignita della Stella d'Oro delle Brigate Garibaldi. Nel 1944 iniziarono a preparare uno sciopero generale. Fu formato un comitato segreto di agitazione che formulò le rivendicazioni dei lavoratori, che vennero diffuse in tutte le fabbriche. Venne costituito all'interno del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale il Comitato Settore Industriale, formato dai rappresentanti delle maggiori fabbriche fiorentine, come la Manifattura Tabacchi, la Pignone, l'Azienda del Gas, la Cipriani, la Galileo, l'Istituto Farmaceutico Militare, la Manetti e Roberts, la Baccani, la Superpila, la Muzzi, la Saivo, la Stisce, la CGE, la Passigli, la Siette, la Ferrero, la Carapelli, le Officine Ferroviarie di Porta al Prato e la Fiat. Inoltre, in ogni fabbrica era stato formato un comitato aziendale che doveva tenere contatti con il CSI ed occuparsi dell'organizzazione e della diffusione delle direttive. Il 3 marzo 1944 iniziò lo sciopero. All'alba i GAP fecero un attentato con esplosivo alla sede dei sindacati fascisti, distruggendo gli schedari con 4.000 schede degli operai da deportare. Poi fecero saltare diverse rotaie del tram all'uscita dei depositi. Inoltre, gruppi di partigiani entrati di notte in città stavano dislocando in punti strategici, pronti ad intervenire in caso di necessità. Anche alla manifattura tabacchi le sigaraie iniziarono lo sciopero alle 13, quando due operaie, Marina e Valeria, abbassarono l'interruttore generale della corrente che alimentava tutta la fabbrica. A questo segnale tutti abbandonarono il lavoro. Una delegazione andò dal direttore per esporre le richieste. Il direttore assicurò che tali richieste sarebbero state presentate alle competenti autorità, ma che nel frattempo il lavoro avrebbe dovuto essere ripreso. Le sigaraie risposero che il lavoro sarebbe stato ripreso solo quando le loro richieste fossero state accolte. La mattina seguente le sigaraie erano tutte in fabbrica, in sciopero bianco. Il comando tedesco intimò di riprendere immediatamente il lavoro, altrimenti sarebbero intervenute, ma le sigaraie tennero duro. Alle 10 arrivò alla manifattura la banda Carità, il torturatore fascista di Villa Triste, sulla via Bolognese, dove venivano portati gli antifascisti. Carità ed i suoi sgherri passarono di reparto in reparto sperando che la loro triste fama incutesse terrore fra le operaie e che riprendessero il lavoro. Le sigaraie reagirono con invettive ed una gridò: «Vigliacco, sparisci addosso se hai il coraggio!» ed uno dei repubblichini sparò in aria. Non riuscendo ad individuare chi aveva gridato, Carità ne fece arrestare tre a caso. Le sigaraie allora gettarono su di loro dei volantini antifascisti. Gli altri repubblichini nel frattempo arraffarono una gran quantità di sigarette. Le sigaraie avvertirono il portiere che i fascisti stavano rubando le sigarette. Un ufficiale fascista fu costretto a richiamare i suoi uomini, che furono obbligati a restituire più di 4.000 sigarette. Le sigaraie arrestate furono rilasciate, mentre le altre, scese nel cortile, gridavano: «Ladri, andate via!» Carità ed i suoi repubblichini furono costretti ad andarsene con la coda tra le gambe. Lo sciopero continuò fino al 6 marzo e alla fine le sigaraie ottennero 192 ore di gratifica a fine anno, una razione mensile di 100 sigarette a testa, aumenti di salario, un miglioramento della mensa e la possibilità di uscire immediatamente in caso di allarme aereo, senza essere sottoposte alla fruga, la perquisizione che dovevano subire all'uscita dal lavoro. Finito lo sciopero, il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale invitò tutti i lavoratori al boicottaggio della produzione. Le sigaraie furono in prima fila anche in questo caso, riducendo la produzione giornaliera da 2.000 a 60 kg di tabacco. Dopo lo sciopero, il CLN diffuse un volantino su cui possiamo leggere: «Dalle sigaraie fiorentine alle massaie empolesi, con lo sciopero le prime, con le dimostrazioni sulla via le seconde, ovunque la partecipazione femminile al movimento di riscossa popolare ha dato un carattere inconfondibile alle manifestazioni. Voi operaie e impiegate avete gridato in viso all'oppressore tedesco e al suo sgherro fascista: basta! Gli avete fatto capire che le sue ore sono contate, poiché quando le donne si muovono è tutto il popolo che si muove». Ascoltiamo quindi Bella Ciao nell'esecuzione dei Modena City Ramblers. Mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. E tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su bella ciao! All'inizio di luglio il Comitato Segreto di Agitazione di Firenze incitò gli operai all'agitazione sindacale e alla resistenza. Fra le richieste c'era il pagamento di alcune mensilità anticipate. Le sigaraie rispondono prontamente e scrivono in un comunicato: per ottenere 3 mesi di salario anticipato e la distribuzione dei viveri siamo ricorsi allo sciopero, che è durato 1 ora e mezzo. I fascisti riuscirono a far interrompere lo sciopero puntando le armi contro le sigaraie. Quando poi i tedeschi tentarono di incendiare la fabbrica, i lavoratori riuscirono ad impedirlo. Il 23 luglio 1944 i tedeschi occupano la manifattura a tabacchi e durante l'insurrezione di Firenze, che inizia l'11 agosto e che durerà fino al 10 settembre, diventò la roccaforte dei paracadutisti tedeschi sul fronte del Mugnone. Dopo la liberazione, i locali della manifattura a tabacchi furono requisiti dal Navy Army and Air Force Institute, l'organo addetto alla logistica delle forze armate statunitensi. Poi fu riconsegnato alla ricostituita amministrazione cittadina e dopo essere stata rimessa in efficienza nei primi mesi del 1946 riprese la produzione. Nel 1947 le sigaraie conquistarono il contratto nazionale e quindi la sicurezza del lavoro. L'orario giornaliero di 7 ore, il divieto del cottimo, l'indennità di ferie e natalizia. Il 16 marzo 2001 la manifattura tabacchi di Firenze è stata chiusa definitivamente. Lo Stato italiano ha venduto le manifatture, che sono state quasi tutte delocalizzate, prima in Puglia, poi in Romania nel 2011. Oggi la ex manifattura tabacchi è oggetto di una speculazione che ha iniziato la costruzione di appartamenti e negozi di lusso. Per chi volesse approfondire, consiglio il video dello spettacolo teatrale tenutosi il 3 aprile 2025 all'SMS di Rifredi, Le sigaraie parlano, di cui abbiamo parlato, visibile su YouTube. Il libretto Le sigaraie della manifattura tabacchi di Donatella Masini e Maurizio Bertelli. di Alfredo Mazzoni, La resistenza nelle fabbriche fiorentine, ricordi del periodo clandestino, nel libro È il primo maggio, aprite. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!